Questo è un governo davvero che inizia dando dei segnali molto, molto forti. Primo, naturalmente, quello è il fatto della alta presenza femminile, e sembra sia proprio un record a livello mondiale. 2/3 dei ministri sono ministre, quindi sono 11 ministre e 6 ministri, e questo già è un primo segnale positivo. Dopodiché, un secondo segnale così generale è che la scelta è caduta su persone molto competenti di altissimo profilo. Quindi questo anche è un segnale molto forte di un Pedro Sanchez che chiaramente ha disegnato un governo di legislatura, non un governo ad interim. Dopodiché ci sono alcuni segnali politici anche interessanti, tra cui il fatto per esempio che siano stati reintrodotti il Ministero della Scienza e il Ministero della Cultura, che sono due elementi molto importanti e che sono due elementi politici a cui il precedente governo Rajoy invece non dava centralità, come invece Sanchez vorrebbe fare. C'è la questione del cambiamento climatico, delle energie rinnovabili, che è un altro, diciamo, dei cavalli di battaglia storici del Partito Socialista e a cui Sanchez ha dato di nuovo centralità anche con il nome del nuovo ministero dell'ambiente, che è una ministra per la transizione energetica, ecco, si chiama proprio così il ministero. Altri elementi interessanti sono il fatto che appunto siano state scelte delle persone con un profilo importante, per esempio il ministro degli esteri e l'ex presidente dell'Europarlamento Borrell. La ministra per l'economia è una funzionaria dell'Unione Europea che è appunto esperta in tema di budget. Il nuovo ministro della scienza è l'astronauta spagnolo Pedro Duque, che è anche astronauta europeo del corpo degli astronauti europei. Ci sono tutta una serie di nomine che vogliono proprio dare questo segnale di discontinuità e come dicevo, di alto profilo. È una domanda che sorge ovviamente spontanea, visti gli ultimi accadimenti, insomma, degli ultimi anni in Spagna. Cambierà qualcosa nei rapporti con la Catalogna? Ecco, questo è un punto su cui tutti gli osservatori un po' stanno cercando di fare delle previsioni. Diciamo che il cambiamento degli interlocutori sia a Barcellona che a Madrid, perché ricordiamo anche a Barcellona è stato formato un nuovo governo catalano, certamente apre delle nuove speranze, nel senso che non c'è più Rajoy, che era l'immobilismo più assoluto, non c'è più Puigdemont, non c'è neanche più Masquer, il predecessore di Puigdemont. Adesso c'è Quim Torra, quindi sono nuove persone. Certamente Sanchez, anche se da un punto di vista politico non si è mai allontanato molto dalle posizioni del Partito Popolare, anzi loro stessi hanno appoggiato l'applicazione 155, che è un po' il peccato originale per il quale gli indipendentisti accusano i socialisti, però è vero anche che Sanchez ha cambiato molto i toni, ha già detto che per lui la cosa più importante sarà sedersi e parlare, cosa che invece Rajoy non ha mai voluto fare. Non mi aspetto dei cambiamenti sostanziali, però alcuni cambiamenti da un punto di vista, come dire, dell'approccio certamente ci saranno. Ci sono alcune misure che potrebbero prendersi, che certamente abbasserebbero la tensione, per esempio avvicinare i prigionieri politici a delle carceri catalane. Ricordiamo che la Spagna è un paese molto grande e i politici che sono in carcere, che alcuni indipendentisti con molte ragioni pensano di poter definire addirittura dei prigionieri politici, sono in carceri molto lontane da Barcellona, quindi anche solo la moglie e i figli piccoli, per andare a trovarli una volta a settimana, devono fare 1500 chilometri. Anche solo il fatto di poterli avvicinare delle carceri catalane, chissà in un secondo momento scarcerarli, perché ricordiamo che la pubblica accusa in Spagna dipende gerarchicamente da una nomina governativa, perché il capo, il fiscal jefe, è una nomina governativa e da questo fiscal jefe dipendono tutti i pubblici ministeri di Spagna. Quindi diciamo, in un secondo momento forse magari una scarcerazione in attesa del processo sarebbe, come dire, auspicabile per diminuire la tensione. Cambiamenti più grandi di questi non lo so se ci saranno, anzi dubito in realtà, però già questo potrebbe un po' aiutare il clima generale. Negli ultimi anni in Europa abbiamo visto un crollo dei partiti socialisti, penso alla Francia, penso alla stessa Italia, penso anche altri contesti. In Spagna, nonostante l'arrivo insomma di Podemos, il Partito Socialista ha perso dal 2011 al 2016 solo 6 punti, tra virgolette. Dove sta questa tenuta, diciamo? Ecco, io in realtà non parlerei di tenuta, perché il Partito Socialista attuale è quello, diciamo, il più basso storicamente. L'accusa è che Sanchez ha portato il Partito Socialista Spagnolo ai suoi peggiori risultati di sempre. Ricordiamo che ha solo 85 seggi sui 350 del Congresso dei Deputati. Io credo che questa mossa, diciamo, Sanchez è stato molto abile da molti punti di vista, uno dei quali è che ha saputo, come dire, cogliere il momento giusto per fare questo passo politico, ha saputo, diciamo, agglutinare tutta una serie di scontenti rispetto al governo Rajoy per potersi approfittare di questa situazione e diventare presidente del governo, e quindi avere da un lato una visibilità che non aveva, perché ricordiamo che Sanchez non era più deputato, perché si era dimesso proprio per non votare, per non astenersi sul governo Rajoy come gli aveva indicato il suo partito, e quindi prima che fosse di nuovo nominato, perché Sanchez ha tutta una storia, insomma, prima di essere di nuovo eletto dai militanti come segretario, insomma, lui era, si era dimesso come deputato proprio per non votare l'astensione che avrebbe favorito Rajoy. Ecco, quindi il governo gli ridà una visibilità e dà la possibilità ai socialisti spagnoli di farsi vedere, far vedere il progetto alternativo. Per questo la scelta di questi ministri è stata così importante, e per questo che ci ha pensato tanto. Non l'ha fatto subito, ecco, è passata una settimana da quando lui è diventato presidente, proprio perché aveva questa possibilità di far vedere. A questo punto è chiaro che il modello di Sanchez è il modello portoghese, il modello in cui i socialisti sono al governo con l'appoggio della sinistra, e lui vorrebbe imitarlo. Certo, quello che manca in questo momento a Sanchez è la base parlamentare, quindi la base elettorale. Se sarà abile, se davvero, come è sembrato durante il dibattito di investitura, i socialisti e Podemos hanno capito che solo insieme possono vincere, quindi solo strutturando un'alleanza con i diversi accenti che ciascuno vorrà dare, ma strutturando questa alleanza sono in grado di diventare di nuovo egemonici in Spagna. Ecco, se loro saranno capaci di fare questo, Sanchez da un lato e Podemos dall'altro, è possibile che si inverta questo trend a cui facevi riferimento. Altrimenti, certo, per i socialisti potrebbe arrivare una nuova batosta. Questo non lo sappiamo. Sanchez ha davanti a sé alcuni mesi, fino a 2 anni al massimo, per dimostrare di che cosa è capace lui, di cosa sono capaci i socialisti, e se davvero sono capaci di parlarsi con le altre sinistre che ci sono in questo paese.